tú stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace no, no, non c'è. Al mondo, se rido è e se piango è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore, sto vivendo con te, i miei primi tuoi.